Salmo 8. O Yahweh, nostro Signore, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Più dei cieli essa canta il tuo splendore. Nella bocca di bambini e lattanti hai stabilito la tua forza contro i nemici, per paralizzare il nemico e l'avversario. Quando guardo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi, il figlio dell'uomo perché tu lo visiti. Tu l'hai fatto poco meno di un Dio, l'hai coronato di gloria e di splendore, l'hai reso sovrano delle opere delle tue mani, ogni cosa hai sottomesso ai suoi piedi, ogni specie di greggi e armenti, e anche gli animali della selva, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ciò che guizza sulle rotte dei mari. O Yahweh nostro Signore, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Pace e gioia. Ho introdotto la lettura del Salmo 8 nella traduzione del monaco Enzo Bianchi, traendola dal testo pubblicato da Mondadori Oscar Varia nell'anno 2000, il volume terzo della pubblicazione della Bibbia. Per quanto riguarda il commento, Enzo Bianchi ha sottolineato che l'uomo di cui si parla nel Salmo 8 non è l'uomo inteso come individuo, ma è l'Adam, l'Adamo collettivo. Tenendo conto dunque che l'immagine impronta di cui parla la Genesi, l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, significa innanzitutto la capacità, l'apertura e l'incontro con Dio. Egli crede che l'essere a immagine e somiglianza di Dio possa significare innanzitutto che l'uomo è un essere relazionale, è un essere con l'altro, è un essere con gli altri. Per quanto riguarda dunque il commento al Salmo 8, ho scelto quanto Giovanni Paolo II in due udienze generali, quella del 26 giugno 2002 e quella del 24 settembre 2003, ha proposto come meditazione ai pellegrini. Il Salmo 8 nel Salterio lo troviamo alle lodi del sabato della quarta settimana. Scrive Giovanni Paolo II: «Onore dunque all'uomo, onore alla sua dignità, al suo spirito, alla sua vita». Con queste parole, nel luglio del 1969, Paolo VI affidava agli astronauti americani in partenza per la Luna il testo del Salmo 8, perché entrasse negli spazi cosmici. Questo inno è infatti una celebrazione dell'uomo, una creatura minima se paragonata all'immensità dell'universo, una canna fragile, troveremo nel Salmo il termine Enosh, che significa appunto fragile, per usare una famosa immagine del grande filosofo Blaise Pascal. Eppure una canna pensante che può comprendere la creazione in quanto Signore del creato, coronato da Dio stesso, come vedremo al versetto 6 di questo Salmo. Come accade spesso negli inni che esaltano il Creatore, il Salmo 8 inizia e termina con una solenne antifona rivolta al Signore, la cui magnificenza è disseminata nell'universo. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. La Bibbia ci invita ad aprire il cammino della nostra giornata con un canto che non solo proclami le meraviglie operate da Dio e la nostra risposta di fede, ma le celebri con arte, Vedi il Salmo 46, versetto 8, cioè in modo bello, luminoso, dolce e forte al tempo stesso. Splendido tra tutti è il Salmo 8, in cui l'uomo, immerso in un fondale notturno, quando nell'immensità del cielo si accendono la luna e le stelle, vedi il versetto 4, si sente come un granello nell'infinito, negli spazi illimitati che lo sovrastano. Ecco aprirsi subito dopo il suggestivo scenario di una notte stellata. Di fronte a tale orizzonte infinito affiora l'eterna domanda: che cosa è l'uomo? Versetto 5. La prima e immediata risposta parla di nullità, sia in rapporto all'immensità dei cieli, sia soprattutto rispetto alla maestà del Creatore. Il cielo, dice il salmista, è tuo. La luna e le stelle sono state da te fissate. E sono opera delle tue dita. Bella è quest'ultima espressione, invece della più comune opera delle tue mani. Confronta il versetto 7. Dio ha creato queste realtà colossali con la facilità e la raffinatezza di un ricamo o cesello, con il tocco lieve di un arpista che fa scorrere le sue dita sulle corde. Da un lato, la persona umana si sente quasi schiacciata dalla grandiosità del creato. Dall'altro però Dio si china sull'uomo e lo incorona come suo viceré, il luogotenente regale dello stesso Creatore. Di gloria e di onore lo hai coronato. Entriamo così nella seconda strofa del Salmo. L'orizzonte della sovranità dell'uomo sulle altre creature è specificato quasi evocando la pagina di apertura della Genesi. Greggi, armenti, bestie della campagna, uccelli del cielo e pesci del mare sono consegnati all'uomo perché, imponendo loro il nome, ne scopra la realtà profonda, la rispetti e la trasformi attraverso il lavoro e la finalizzi ad essere fonte di bellezza e di vita. Il Salmo ci rende consapevoli della nostra grandezza, ma anche della nostra responsabilità nei confronti del creato. Vedi il libro della Sapienza, capitolo 9, versetto 3. Tutto hai posto sotto i suoi piedi e l'aggettivo tutto risuona mentre sfilano le varie creature. Questo dominio, però, non è conquistato dalla capacità dell'uomo, realtà fragile e limitata, e non è neppure ottenuto con una vittoria su Dio, come vorrebbe il mito greco di Prometeo. È un dominio donato da Dio. Alle mani fragili e spesso egoiste dell'uomo è affidato l'intero orizzonte delle creature, perché egli ne conservi l'armonia e la bellezza, ne usi ma non ne abusi, ne faccia emergere i segreti e sviluppare le potenzialità. Rileggendo il Salmo 8, l'autore della lettera agli Ebrei vi ha scoperto una comprensione più profonda del disegno di Dio nei riguardi dell'uomo. La vocazione dell'uomo non può essere limitata all'attuale mondo terreno. Se il salmista afferma che Dio ha posto tutto sotto i piedi dell'uomo, questo vuol dire che gli vuole assoggettare anche il mondo futuro. Vedi lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 5. Un regno incrollabile, sempre Ebrei 12, 28. In definitiva, la vocazione dell'uomo è una vocazione celeste. Ebrei, capitolo 3, versetto 1. Dio vuole condurre alla gloria celeste una moltitudine di figli. Capitolo 2, versetto 10. Perché questo progetto divino si attuasse, era necessario che la via fosse tracciata da un pioniere, come lo definisce la lettera agli Ebrei, nel quale la vocazione dell'uomo trovasse il suo primo adempimento perfetto. Questo pioniere è Cristo. L'autore della lettera agli Ebrei ha osservato in proposito che le espressioni del Salmo si applicano a Cristo in maniera privilegiata, cioè più precisa che per gli altri uomini. Infatti, il salmista adopera il verbo abbassare, dicendo a Dio: abbassasti l'uomo un poco in confronto degli angeli, di gloria e onore lo coronasti. Confronta il versetto 6 del Salmo 8 col versetto 6 del capitolo 2 della lettera agli Ebrei. Per gli uomini ordinari questo verbo è improprio, non sono stati abbassati in confronto degli angeli, giacché non si sono mai trovati al di sopra di essi. Invece per Cristo il verbo è esatto, perché in quanto figlio di Dio egli si trovava al di sopra degli angeli ed è stato abbassato quando è diventato uomo. poi è stato coronato di gloria nella sua risurrezione. Così Cristo ha adempiuto pienamente la vocazione dell'uomo e l'ha adempiuta, precisa l'autore, a vantaggio di tutti. Versetto 9 dello stesso capitolo 2. Come dichiara la Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, l'uomo è stato creato a immagine di Dio, capace di conoscere e amare il proprio Creatore, e fu costituito da Lui sopra tutte le creature terrene, quale Signore di esse, per governarle e servirsene a gloria di Dio. Il numero 12 della Gaudium et Spes. Purtroppo, il dominio dell'uomo, affermato nel nostro Salmo, può essere malamente inteso e deformato dall'uomo egoista, che spesso si è rivelato più un folle tiranno che un governatore saggio e intelligente. Il libro della Sapienza mette in guardia contro deviazioni del genere, quando precisa che Dio ha formato l'uomo perché domini sulle creature e governi il mondo con santità e giustizia. Capitolo 9, versetti 2 e 3. Sia pure in un contesto diverso, anche Giobbe si appella al nostro Salmo per ricordare soprattutto la debolezza umana, che non meriterebbe tanta attenzione da parte di Dio. Che è quest'uomo che tu ne fai tanto conto e a lui rivolgi la tua attenzione? E lo scruti ogni mattina. Capitolo 7, versetti 17 e 18. La storia documenta il male che la libertà umana dissemina nel mondo con le devastazioni ambientali e con le ingiustizie sociali più clamorose. A differenza degli esseri umani che umiliano i propri simili e la creazione, Cristo si presenta come l'uomo perfetto, coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti. Versetto 9 del capitolo 2 della lettera agli Ebrei. Egli regna sull'universo con quel dominio di pace e di amore che prepara il nuovo mondo, i nuovi cieli e la nuova terra, di cui parla la seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 13. Anzi, la sua autorità regale, come suggerisce l'autore della lettera agli Ebrei, applicando a lui il Salmo 8, si esercita attraverso la donazione suprema di sé nella morte a vantaggio di tutti. Cristo non è un sovrano che si fa servire, ma che serve e si consacra agli altri. Nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 45, il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Egli in tal modo ricapitola in sé tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, come afferma l'inno in Efesini 1, versetto 10. In questa luce cristologica il Salmo 8 rivela tutta la forza del suo messaggio e della sua speranza, invitandoci ad esercitare la nostra sovranità sul creato non nel dominio, ma nell'amore. In questa luce Sant'Ambrogio commenta il Salmo e la applica a noi. Egli parte dalla frase in cui si delinea l'incoronazione dell'uomo. Di gloria e di onore lo hai coronato, versetto 6. In quella gloria egli vede però il premio che il Signore ci riserva quando abbiamo superato la prova della tentazione. Sant'Ireneo aveva scritto: la gloria di Dio è l'uomo riempito di vita. Dio intreccia per noi una corona di giustizia, seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 8, che ricompenserà la nostra fedeltà a Lui mantenuta anche nel tempo della tempesta che scuote il nostro cuore e la nostra mente. Ma Egli è in ogni tempo attento alla sua creatura prediletta e vorrebbe che in essa brillasse sempre l'immagine divina, di cui parla Genesi capitolo 1 versetto 26, così che sappia essere nel mondo segno di armonia, di luce e di pace.